24, la storia. La pace, secondo me, deve essere soprattutto una cosa profonda nei cuori, nell'interno dell'uomo, senza di che non si può dare pace esteriore. È l'uomo interiore che deve essere nella pace e che quindi solo così può diffonderla agli altri, essere lui stesso pace. Quanto più ciascuno di noi curerà di essere pace in questo senso profondo e continuo, sarà facile che ci sia anche la pace esterna, tra le comunità, tra i popoli, tra le nazioni. Rossetti è stato appunto un grande leader carismatico religioso, il quale ha avuto alcune grandi intuizioni in anticipo sui tempi. La prima grande intuizione era la possibilità di inventarsi un sistema costituzionale democratico di tipo diverso rispetto a quella che era la tradizione occidentale. Rossetti è stato un uomo che ha intuito il fatto che la forma storica assunta dal cristianesimo, diciamo dalla reazione antirivoluzionaria, antirivoluzione francese in avanti, era una cosa che doveva morire. Dice ai preti, dice, dobbiamo renderci conto che la cristianità è finita, irrimediabilmente finita. Una grande capacità di distinguere ciò che è veramente fondamentale da tutto ciò che invece è relativo, può essere discusso. Ecco, io credo che da questo punto di vista rimarrà sempre una grande figura di fascino, è una figura che deve essere studiata all'interno, ripeto, di questa immagine, che non è né quella del filosofo, né quella del pensatore, né quella dell'uomo politico, ma è quella dell'uomo che si mette in gioco di fronte alla sfida del proprio tempo e su tavoli diversi, come gli succede, possono essere quelli della politica, possono essere quelli della Chiesa, possono essere quelli dell'esperienza monastica, possono essere quelli anche di una certa leadership dell'opinione pubblica. Oggi a Mix24 raccontiamo la storia di Giuseppe Dossetti, cattolico partigiano, capo del CLN di Reggio Emilia, politico di spicco della Democrazia Cristiana e membro della Costituente. La guerra segna nel profondo la visione dell'umanità. Dossetti riconosce che il male della guerra non è da attribuire a uomini in particolare, ma agli uomini. È una crisi dell'umanità che non termina con la fine della guerra. È qualcosa di più profondo che va oltre anche alla guerra fredda tra Occidente e Unione Sovietica. Per Dossetti è solo un segno della crisi, non la causa. La causa è l'uomo che ha abbandonato il suo compito di essere umano. Avevo questo senso molto profondo che le grandi conquiste si possono perdere, le grandi cose che erano costate tanto. La democrazia si conquista, ma si può anche perdere. La pace si può realizzare, ma si può perdere. La fede si può perdere. Allora lui era all'incrocio di questi grandi drammi. E l'aver vissuto la resistenza, la guerra mondiale, aver visto, diciamo, l'abominio a cui poteva arrivare un sistema politico, un sistema sociale e anche un sistema culturale, e l'aveva portato a prendere sempre delle decisioni radicali. Dossetti si pone il problema di quale deve essere il ruolo dei cristiani nel nuovo mondo e in particolare in Italia. Alcide De Gasperi ha già fondato il Partito della Democrazia Cristiana, ma Dossetti è contrario ad un partito dei cattolici per tre motivi. Ce ne parla lo storico Roberto Villa. Primo, il partito è una parte, la cattolicità è l'universale. Secondo, avrebbe comunque costituito una sorta di strumentalizzazione dei grandi valori, dei grandi principi che invece sono rappresentati dalla Chiesa. In terzo luogo, perché per esperienza storica il cattolicesimo si era dimostrato non particolarmente orientato a favorire il progresso. Ma le preoccupazioni di Dossetti non sono quelle del Vaticano. Il Papa Pio XII vuole che vi sia in Italia un partito cattolico unito e lo stesso Dossetti viene coinvolto. Anzi, rimane molto sorpreso quando, avendo partecipato alla prima riunione dei giovani democristiani come esponente del Vento del Nord, è improvvisamente chiamato da De Gasperi come vice segretario del partito. E Dossetti stesso, in una lettera del 1945 indirizzata a Padre Gemelli, rettore dell'Università Cattolica di Milano, a spiegare che la sua candidatura è già stata decisa al Congresso della Democrazia Cristiana. Non è entusiasta, confessa, ma accetta l'impegno per la ricostruzione del paese. Ma dichiara che non sarebbe stato il suo compito definitivo. E infatti, come racconta Enrico Gavalotti, appena arrivato a Roma, chiama Fanfani. Giovane dal volto pulito, con un pedigree resistenziale, viene dalla Cattolica di Gemelli, non ha neanche una corrente, era quasi stupido lasciarsi perdere l'occasione di coinvolgere per appunto un personaggio che poteva essere molto utile, poteva anche essere utilizzato come una pedina. E infatti una delle prime cose che lui fa quando è a Roma è una telefonata a Fanfani in cui gli dice: guarda, bisogna che tu vieni qua, dammi una mano perché ho la sensazione che mi hanno messo qui, lui dice, a fare la porta. Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix 24. Oggi stiamo raccontando la storia di Giuseppe Dossetti, cattolico partigiano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene nominato al congresso della DC vice segretario del partito. Con lui ci sono Amintore Fanfani, Giorgio La Pira e Giuseppe Lazzati. Li chiamano i professorini perché vengono dall'Università Cattolica e perché rappresentano l'ala sinistra della Democrazia Cristiana. E come racconta Filippo Maria Pandolfi, insieme si compensano. Non era un mondo con una, chiamiamola, disciplina unitaria. Fanfani, per esempio, molto realistico, più capace di muoversi con disinvoltura da una posizione all'altra. La Pira, che aveva una sua idealità quasi ecumenica. E poi Lazzati, che invece aveva un temperamento molto più controllato. Quindi erano figure diverse. Beh, Dossetti aveva alcune caratteristiche del grande politico e del politico autentico, questo non c'è il minimo dubbio. Soprattutto aveva l'idea che il politico deve attrarre. Dossetti diventa presto il numero due del partito, non solo per il ruolo di vice segretario, ma come leader naturale dei giovani, di coloro che credono che la Democrazia Cristiana debba essere profondamente riformatrice, e si forma così il gruppo dei dossettiani. Le diverse visioni politiche tra Dossetti e De Gasperi emergono anche nella prima grande scelta tra monarchia e repubblica, e soprattutto su come decidere tra le due forme di governo. Attraverso un referendum oppure una scelta istituzionale, cioè il primo atto di un'assemblea costituente. Sentiamo il politologo Paolo Pombeni. La scelta repubblicana è stata una scelta molto travagliata all'interno del mondo democristiano. E anche lì, appunto, c'era proprio questa tipica divisione fra come vedere le cose De Gasperi e come vedere le cose Dossetti. Per Dossetti il problema è che bisognava testimoniare, diciamo così, la cosa giusta, e per lui la cosa giusta era indubbiamente la Repubblica. Per De Gasperi il problema fondamentale è che bisognava garantire due cose. Uno, il massimo di risultato di concordia sociale, in modo che non ci fossero lasciti rivoluzionari da parte di chi perdeva. Due, il fatto che ci fosse un grandissimo partito cattolico che potesse, diciamo, sostenere questa democrazia, avesse la forma repubblicana o monarchica. Dossetti arriva alla convinzione della scelta repubblicana perché crede in una cosa fondamentale. Non ci può essere giustizia sociale e una vera politica di riforme economiche e di allargamento dei diritti senza una netta rottura istituzionale con lo Stato precedente. Ce lo spiega il nipote di Dossetti. Mio zio vedeva appunto nel fascismo la crisi dello Stato liberale e quindi la necessità di rifondare su basi autenticamente democratiche e diciamo fondate su valori umanistici la convivenza della nostra nazione. Ecco, di qui la sua insistenza sullo studio, sulla necessità di leggere, di capire, di studiare la storia, ecco. E quindi questa dimensione formativa, ecco, che per lui era essenziale. Per Dossetti un'analisi profonda della realtà sociale è fondamentale. Da qui nasce la decisione di fondare Cronache Sociali, una rivista che si occupa nel concreto di analizzare la situazione socio-politica del mondo del dopoguerra. E lo ricorda bene Ettore Bernabei, allora giovane giornalista. C'era una redazione fatta di giovanissimi, Glisenti giovanissimo, la moglie, giovani professori, Carmine Iannaco, che era un italianista. Eugenio Minoli era grande amico di tutti, era un giovane cattolico torinese, era uno dei collaboratori e anche degli scrittori, e poi soprattutto la Fida, Fanfani. I lettori di Cronache Sociali erano prevalentemente giovani, giovani intellettuali, giovani laureati, giovani che cominciavano a impegnarsi in politica, perché un cattolico che volesse testimoniare la sua fede nella società non poteva limitarsi allo studio e all'insegnamento, doveva impegnarsi nell'azione politica. Il tema che più sta a cuore a Dossetti, La Pira, Fanfani è quello economico. Riformare il sistema capitalistico e proporre un sistema di economia mista di aziende pubbliche e aziende private. Il solo modo, secondo i professorini, per un paese povero di materie prime come l'Italia. Il solo modo per fare concorrenza sia alle aziende europee e poi alle aziende degli altri continenti sui mercati internazionali. Cronache Sociali è una rivista che racconta bene il dibattito per la creazione della Costituzione italiana, che dal giugno 1946 è in atto. I professorini sono tra i deputati dell'Assemblea Costituente. Dossetti, da giovane trentenne, vede nella Costituzione la possibilità per l'Italia di cambiare il passo della propria storia. Cattolici, socialisti, liberali, comunisti si trovano insieme a disegnare le basi fondanti di una nuova Italia e Dossetti, già in questa collaborazione, vede un primo passo verso un superamento dello scontro delle ideologie ottocentesche. Lo racconta lui stesso, successivamente a Bologna nel 1986. Ma certo, di tutta quella fase della mia vita mi è particolarmente impresso il ricordo della Costituente, soprattutto del lavoro svolto per oltre un anno nella prima sottocommissione, nella quale mi soccorse quasi tutti i giorni la collaborazione costruttiva con l'intelligenza acuta e pensosa di Aldo Moro e il confronto con Lelio Basso e soprattutto con Palmiro Togliatti, che pur nella netta diversità della concezione generale antropologica e quindi politica molto mi arricchì con la sua vasta esperienza storica e con la sua passione per un rinnovamento reale del nostro paese rispetto alla situazione prefascista, sia pure ammodernata. La nostra Costituzione l'abbiamo costruita nella prima sottocommissione con i principi generali, principi fondamentali, in funzione di un'idea madre, quasi stella polare, che la posizione dell'uomo nel mondo. Cioè abbiamo visto l'uomo situato nelle seguenti naturali comunità: la comunità familiare, la comunità religiosa, la comunità di lavoro, la comunità cittadina, la comunità nazionale e la comunità internazionale. Per Giorgio La Pira, insomma, la comunità internazionale è una comunità originaria. Non c'è bisogno che gli stati si mettano d'accordo per convivere tra loro. Gli uomini vivono in una grande comunità mondiale. Questo è un fatto nativo originario. Da questa convinzione, dalla tragedia portata dalla Seconda Guerra Mondiale, che nasce l'articolo 11 che dichiara: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, proposta che fu presentata proprio da Dossetti. Ce ne parla il giornalista Raniero Valle. Anche questa parola ripudia la guerra non è solo vabbè, fa a meno della guerra, finora abbiamo fatto la guerra, adesso non la faremo più, no, è proprio il senso di una rottura col passato, una rottura con tutta una storia passata e con tutta una dottrina passata, perché la guerra c'era sempre stata, era sempre stata teorizzata, era stata riconosciuta giusta anche dalla Chiesa, quindi tutto questo viene interrotto, viene rovesciato e questo vuol dire che c'è un passaggio storico, un passaggio epocale. Dossetti dà il suo contributo anche all'articolo 7 che regola i rapporti tra la Repubblica Italiana e lo Stato Vaticano. Paolo Pombeni, politologo. Dossetti non avrebbe mai voluto fare i concordati. Lui lo fa perché Dossetti fa il concordato perché la Chiesa glielo impone. Adesso ormai ci sono documenti chiari da questo punto di vista. Sa che lui cerca, di fronte a questa imposizione, di dargli un contenuto nuovo al posto delle firme che c'erano sotto quel concordato, che sono le firme da un lato del fascismo, ma dice lui dall'altro lato di una Chiesa di tipo diverso, noi metteremo la firma dello Stato democratico e dall'altro lato la firma di una Chiesa che si riscopre come la Chiesa del Verbo incarnato. Molto più laicamente De Gasperi disse a Nenni: guardate, abbiamo già tanti guai, è inutile che ce ne aggiungiamo un altro aprendo un fronte con la Chiesa. Ma è sicuramente l'articolo primo della Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, quello che meglio racchiude l'ideale dei padri costituenti ed in particolar modo quello del gruppo dei dossettiani. Ancora il nipote di Dossetti, Giuseppe Dossetti Junior. Il lavoro vuol dire responsabilità. Ecco, cioè questo è uno dei valori della Costituzione, dei primi articoli, cioè tutti siamo responsabili. È esattamente il contrario dello Stato liberale, lo Stato gendarme, il quale appunto neanche da arbitro, insomma, ecco, detta le regole e poi dopo vince il più forte. La Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Giuseppe Dossetti ritiene di aver terminato il suo ruolo nella politica italiana e decide di non ricandidarsi alle elezioni del 1948. Ma il Papa interviene personalmente. Ha paura che la corrente più progressista della Democrazia Cristiana, orfana del suo leader, si possa dividere dal suo partito. E Pio XII non vuole che si rompa l'unità dei cattolici. Dossetti accetta il divieto e si ricandida alle elezioni dell'aprile 48, dove la Democrazia Cristiana ottiene una vittoria schiacciante. Questa è per lui l'occasione di realizzare tutte le riforme necessarie al paese. Un uomo di visione molto ampia, difficile da catalogare, radicale ma non integralista, di sicuro una personalità carismatica. Mix 24. La storia. Rieccoci a Mix 24 con il ritratto di Giuseppe Dossetti. All'indomani del dopoguerra la sua posizione politica volge sempre al superamento delle rispettive posizioni tra gli avversari. Questo lo rende pericoloso poiché non inquadrabile né dal mondo cattolico né da quello comunista né dal suo stesso partito, quello della Democrazia Cristiana. Infatti lo accusano di comunismo perché sta dalla parte dei lavoratori, di utopismo perché le sue soluzioni sono giudicate troppo alte e quindi poco realizzabili. Ma lui, come dichiara Filippo Maria Pandolfi, non si sente affatto un utopista. Da noi c'è un po' la tendenza a pensare che la riforma sia sempre qualcosa di utopistico. Quindi il riformatore è un utopista. Ma Dossetti aveva esattamente l'opinione opposta. Uno non è riformatore, se non riforma nella realtà le cose. Questo. Tra il 1950 e il 1951 Dossetti accetta per la seconda volta la vice segreteria della Democrazia Cristiana. E quel periodo, seppur breve, sarà un momento di grandi riforme per il paese. Enrico Gavalotti, storico. Se la riforma agraria è stata attuata, è stata attuata anche in parte grazie a lui e al suo impegno. Se la cassa per il mezzogiorno, prima delle storture che poi ha avuto, è stata messa in piedi, ciò è dovuto anche e soprattutto a lui. E poi ancora la legge stralcio della riforma fondiaria, i primi passi verso la partecipazione statale nel settore dell'energia, cioè l'ENI, con Enrico Mattei che è già attivo nella politica della Democrazia Cristiana. Sono le riforme che portano al miracolo economico, ce ne parla Ettore Bernabei. Se l'Italia ai primi degli anni 60 è diventata il quarto paese tra i 7 più industrializzati del mondo, quindi più ricchi del mondo, lo si deve in buona parte a Dossetti, che impostò subito un modello di sviluppo di una società che correggesse gli errori e le disfunzioni già evidenti del sistema capitalistico. Nonostante ciò, Dossetti decide che è tempo di mantenere la dichiarazione fatta a Padre Gemelli. La politica non sarà il mio impegno definitivo. Cattolici e comunisti si radicano sempre di più nello scontro politico, complice anche il Vaticano e la situazione internazionale. Dossetti crede nel dialogo, non nella contrattazione degli ideali politici. Questa sua mancanza di volontà di mediazione viene vista come direttamente connessa alla sua fede profonda nella parola di Dio, e ciò porta i suoi avversari interni e esterni alla DC ad accusarlo di integralismo. Così Rosi Bindi. Dossetti è stato un vero laico perché è stato un vero credente. Sono quelli che non sono credenti che fanno confusione tra la fede e le cose del tempo. Dossetti non aveva bisogno di imprigionare Dio nelle scelte storiche e concrete, se ne assumeva la responsabilità, anche perché quelle scelte erano fortemente ispirate dalla radicalità evangelica, ma erano anche scelte basate sulla sua grande capacità di capire mutamenti storici. Ci sono affermazioni di Dossetti negli anni 50, compresa quella che riguarda l'incontro o la difficoltà dell'incontro tra le grandi religioni monoteiste, che noi stiamo sperimentando in questo tempo, che lui aveva capito allora. La questione della Chiesa per Dossetti è e rimarrà fondamentale fino alla fine dei suoi giorni. Sa che se non si rinnova la Chiesa non si possono porre le premesse per un rinnovamento civile, morale e spirituale della società italiana. È questa la motivazione che nel 1952 lo spinge ad abbandonare la politica e trasferirsi a Bologna per proseguire il suo percorso religioso. Ascoltiamo Roberto Villa. Afferma un'idea che è fondamentale in tutto il suo percorso politico e religioso. Quella che ad ogni grande rinnovamento di una civiltà dovrebbe corrispondere e presiedere un grande rinnovamento della Chiesa. Dossetti si trasferisce a Bologna perché vuole seguire da vicino il cardinale Giacomo Learcaro, vescovo della città. Nel 1952 inizia la formazione di una comunità spirituale, la piccola famiglia dell'Annunziata. L'anno seguente fonda il centro di documentazione che si occupa di studi sociali, politici e religiosi. Nel 1956 si candida per obbedienza al vescovo a sindaco di Bologna, elezioni che perde contro il comunista Giuseppe Dozza. È l'ultima parentesi politica che deve affrontare. Adesso può dedicarsi alle vicende clericali. Nel 1959 Giuseppe Dossetti viene ordinato sacerdote. Ascoltiamolo. Nella mia vicenda più propriamente ecclesiale e dolce e commossa la memoria dell'arcivescovo cardinale Giacomo Learcaro. la cui nomina alla sede di San Petronio nel 1952 fu la ragione propria del mio immediato trasferimento a Bologna e alla cui paternità debbo i doni più grandi, cioè debbo l'esperienza di una stagione ecclesiale animata e palpitante, la nascita della famiglia spirituale avvalorata di nuovo da mia madre, il sacerdozio e la partecipazione al concilio e al postconcilio. Il 6 gennaio 1959 il cardinale Giacomo Lercaro, vescovo di Bologna, ordina sacerdote Giuseppe Dossetti. Tre settimane dopo, Papa Giovanni XXIII, che passerà alla storia come il Papa Buono, indice a sorpresa di tutti il Concilio Vaticano II e la realizzazione di un sogno per Dossetti. Ce ne parla Don Fabrizio Mandreoli. Consideriamo questa cosa, che Dossetti sin dalla fondazione del Centro per le Scienze Religiose inizia a lavorare, a far lavorare sui temi del concilio, sulla storia dei concili. Molto bene. E quindi l'indizione del concilio nel 59, pochissimo tempo dopo che lui, per così dire, che lui è diventato presbitero, sono una sorta di inveramento profondo di un desiderio che lo guida, credo, da tutta la vita. Papa Giovanni aveva parlato nel primo annuncio, il 25 gennaio 1959, della sua idea di un concilio come di un'umile risolutezza di proposito. All'apertura, l'11 ottobre 1962, riaffermava la sua umile personale testimonianza. Vedete, l'accento sempre posto sull'umile risolutezza, sull'umile testimonianza, che esclude ogni avventatezza ed ogni superficialità. Così Giuseppe Dossetti. Papa Giovanni XXIII muore il 3 giugno 1963. Il concilio è ancora in alto mare e il nuovo eletto Paolo VI decide di proseguire il sinodo. Ed è proprio Dossetti, in accordo con il nuovo Papa, ad inventare lo schema che sblocca la situazione. Si palesa che la maggioranza dei vescovi chiede cambiamenti forti e radicali. Quel mondo che si era intuito si sarebbe affacciato dopo la Seconda Guerra Mondiale, qui a Roma si presenta in tutto il suo impeto. Vescovi del Sud America, dell'Africa, dell'Oriente, dell'Europa, del Nord chiedono di contare. Dossetti sostiene la maggioranza riformatrice, anzi è sicuramente uno dei sostenitori più incisivi, capace di muoversi bene e consapevole dei meccanismi assembleari. Eppure, due punti della linea di Dossetti non vengono approvati. Ce ne parla Giovanni Galloni e Giampiero Forenzi. Primo, il fatto che lui voleva l'affermazione della fine di ogni guerra, sia della guerra fondata sulla bomba atomica, sia della guerra fondata sulle armi tradizionali. Secondo, la povertà della Chiesa. E il fatto che Gesù fosse nato un povero, fosse stato lavoratore e non avesse avuto potere, non era inessenziale al discorso del Vangelo, alla storia del cristianesimo, era una cosa seria e quindi andava presa seriamente. In questo senso, quindi, i più poveri e i più esclusi, con un loro primato, diciamo, di prospettiva per costruire la Chiesa. Il Concilio Vaticano II si chiude nel dicembre 1965 con la rinnovata promessa di aprirsi al mondo. Il cardinale Lercaro viene immediatamente nominato presidente della riforma liturgica, che ha lo scopo di porre la celebrazione eucaristica al centro della Chiesa rinnovata, la messa come evento nel quale i fedeli si incontrano e creano la comunità cristiana. Anche i canti, il canto della comunione poi, mi è piaciuto tanto perché ha fatto proprio vedere che andavamo a ricevere il Signore con gioia proprio, mentre prima andavamo su così silenziosi. E mi pare che valga a risvegliare non solo l'interesse, ma anche quella fede che molti è assopita e che finora insomma non ha avuto maniera di svilupparsi. Un nuovo rapporto con Dio che apre la via al dialogo al di là delle formule e dei riti ecclesiali. Oggi a Mix24 stiamo raccontando la storia di una grande personalità del Novecento, Don Giuseppe Dossetti. Mix24. Mix 24, la storia. Rieccoci su Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Giuseppe Dossetti. Subito dopo il Concilio Vaticano II vive con la sua comunità monastica nell'abbazia di Monteveglio vicino a Bologna, ed è lì che tiene la liturgia della parola, dove il sabato sera ci si raduna per commentare le letture della messa domenicale. Questo sforzo di attualizzazione che si fa da parte di molti commenti e commentatori, a mio avviso, ha ancora, anzi, ribadito, incancrenito un vecchio vizio clericale. E cioè precisamente quello di volere fornire delle ricette e di volere dire alla gente, prima che vadano via, adesso ti dico come ti devi comportare. Adesso, poverino, perché in fondo a te la parola di Dio non parla abbastanza, ti dico come tu devi cavare le conseguenze nella tua vita. Noi partiamo invece da una convinzione opposta, che la parola di Dio parli da sé. Quello che in concreto la parola di Dio vuole dire individualmente a lui, personalmente a lui, la parola glielo dice e lui è capace di ascoltare. E questo non è un ritornare così ad un soggettivismo, è vero, nell'applicazione della scrittura, anzi, il testo è stato proposto con una certa oggettività. Noi preti, rinunziando a certe determinazioni che in fondo nascono da una certa presunzione clericale di poter individuare in tutte le singole situazioni la parola da Dio. E voi laici, rinunziare a quella che può essere stata una deformazione della vostra passività passata, e cioè di venire a chiedere a noi l'attualizzazione, l'incarnazione concreta di questa parola nella vostra vita. Cosa che dovete fare voi sotto lo sguardo del Padre Celeste. Dossetti è un uomo che non può essere misurato secondo parametri politici o anche semplicemente umani. La sua misura era il Vangelo, era la parola di Dio. Io mi sono sempre sentito grandemente ispirare dal suo amore per la parola, dalla sua capacità di spiegarla, di penetrarla. Egli amava la Bibbia, la conosceva i luoghi della scrittura, ne gustava tutte le profondità. Questo ha dato alla sua vita una grande linearità. Era il commento di Carlo Maria Martini. L'impegno del cardinale Lercaro e Giuseppe Dossetti nell'applicazione del concilio non sembra piacere molto alla Santa Sede. Giacomo Lercaro, che nel 66 era stato nominato dal Papa presidente del Consiglio per la Riforma Liturgica, 2 anni dopo, dallo stesso Papa, viene rimosso dall'incarico di Vescovo di Bologna. E per Dossetti, come racconta il nipote, è un anno di svolta. Nel 68 per mio zio è stato un anno veramente di svolta. Perché cosa succede? È cardinale e viene dimissionato. E lui dà subito le dimissioni da provicario. Poi nell'ottobre muore mia nonna, che era sua madre, che era diventata la superiora del ramo femminile, e in novembre lui parte per un lungo viaggio in Oriente. Nel 1968 Dossetti si dedica esclusivamente alla guida della sua comunità religiosa, la piccola famiglia dell'Annunziata, stanziatosi progressivamente in diverse sedi in Italia, in Palestina e in Giordania. Va in Oriente a confrontarsi con la grande spiritualità dell'induismo e ne rimane quasi umiliato. E ne ritorna dicendo due cose. La prima: ho subito la più grande umiliazione spirituale della mia vita. Mi sono accorto che i nostri problemi, i problemi dell'Occidente, ma anche i nostri problemi endoecclesiali, sono niente rispetto ai problemi del mondo. La seconda cosa era questa: ho imparato che il prete non deve essere l'uomo delle esperienze, ma l'uomo dello spirito. Che cosa avete fatto? Avete detto preghiere o invocazioni al Buddha o recitato scritture? Cerchiamo di distaccarci dai nostri pensieri, da ogni cosa. Poi ci occupiamo della dottrina del Buddha e riflettiamo sui suoi insegnamenti. Allora, solo la vostra meditazione e le scritture? La nostra meditazione serve per calmare il nostro spirito, per acquisire la conoscenza e per liberarci di quello che c'è di cattivo nella nostra mente, per liberarci dalle sofferenze. Così rispondevano i monaci buddisti alle domande dello stesso Dossetti nel 1976. La presenza di Don Giuseppe Dossetti in Terra Santa prosegue per tutti gli anni 70 e 80. In Italia sono pochissimi coloro che lo seguono e lo ricordano. Dopo 1400 anni, i monaci cristiani ritornano in Terra Santa oltre il Giordano, unici in tutto il territorio del regno hascemita. Sono monaci e monache d'Italia. Appartengono alla piccola famiglia dell'Annunziata, l'ordine religioso fondato nel 1956 da Giuseppe Dossetti, una chiesa orante che considera il mistero della Chiesa di Gerusalemme, madre di tutte le chiese, non meno importante nella storia del mistero del primato di Pietro e della Chiesa di Roma. Dalla Palestina Dossetti osserva quello che succede. Nel 1989 crolla il muro di Berlino e con lui l'ideologia del comunismo. Giuseppe Dossetti dall'inizio della Guerra Fredda aveva avvertito che con il crollo dell'uno sarebbe crollato anche il suo ipotetico avversario. In Italia i partiti storici della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista di Bettino Craxi crollano sotto il peso del loro stesso malaffare. Il Partito Comunista Italiano, orfano dell'Unione Sovietica, cerca di rivoluzionarsi. Si è aperto un varco nella storia che può cambiare l'umanità se gli uomini lo sanno capire. Dossetti non si fa illusioni, poiché non ha mai visto qualcuno lavorare per porre le basi di un'umanità rinnovata, né nella politica né nella Chiesa. Silvio Berlusconi sembra voler rassicurare quanti hanno dimostrato preoccupazione per la vittoria della destra. Non c'è alcun pericolo autoritario o fascista, dice Berlusconi, il 25 aprile festa di pacificazione. Giuseppe Dossetti ha scritto una lettera al sindaco di Bologna che lo aveva invitato alle celebrazioni del 25 aprile, lettera che si chiude con le parole «altrimenti sarebbe un autentico colpo di Stato». Cosa teme Dossetti? Una modificazione frettolosa e inconsulta del patto fondamentale del nostro popolo. Ma la situazione è tale, a suo giudizio, da suggerire che si formino in tutto il paese, a partire dalle frazioni più piccole, comitati impegnati nella difesa dei valori fondamentali espressi dalla nostra Costituzione. Un mese dopo, Dossetti, in un discorso commemorativo all'amico Giuseppe Lazzati, cita il brano della Bibbia Isaia 21. La parola di Dio è ancora una volta per Dossetti la chiave per leggere la storia. Parliamo molto anche di umiltà, ma ancora come umiltà individuale, non come umiltà collettiva. Umiltà dunque, individuale e collettiva di tutti noi cristiani. Mentre è tanto facile che come collettività procediamo con falsa sicurezza, con infelice paritia, se non con arroganza, che proprio ripensando a tutti questi decenni non dovremmo avere, dovremmo piuttosto sentire una ragione di confusione e di vergogna. In questo senso ho parlato di globalità del rifiuto cristiano e ritengo che non ci sia possibilità per le coscienze cristiane di nessuna trattativa. In ultima analisi, è solo questo che può vincere la notte. Ci vogliono dei battezzati formati ad essere e ad agire nel tempo continuamente guardando all'ultratemporale, cioè abituati a scrutare la storia ma nella luce del metastorico, nella luce delle scatologie. Purtroppo siamo invece più spesso abituati al contrario, cioè a immergerci continuamente e totalmente nella storia, anzi nella cronaca. La nostra miopia ci fa pensare all'oggi o al massimo al domani, sempre egoistico, non oltre, in una reale dilatazione di spirito al di là dei Dio. E questa è la via, diurna e non notturna, verso la città dell'uomo, nella prospettiva sempre intensamente mirata della città celeste, della Nuova Gerusalemme. Grazie. Don Giuseppe Dossetti muore il 15 dicembre 1996. Il suo corpo è sepolto nel minuscolo cimitero di Casaglia di Montesole e riposa vicino ai fratelli e le sorelle della comunità monastica da lui fondata, la piccola famiglia dell'Annunziata. Difficile immaginare dal suo sepolcro chi è stato Dossetti, se non un uomo di Dio.